il presente, non c'è tante le famiglie ripartono, c'è qualcuno qua. C'è qualcuno qua? Guarda oltre le amministrative. Hola, hola, c'è qualcuno qua? Natali! Oh, chi è? Natali, mi senti? Sì che ti sento. Ascolta, sto provando un mic, a me va in controllo. Non ho capito chi sei, però la radio già è buona. E Luca, sono a Tarì, va in controllo del radio, regolami questo microfono. Sembra un po' cupo. È così, peggio o meglio? Guarda un po'. No, così è più... è meglio, diciamo così. Allora, vediamo un po', guarda adesso, se va bene, se lo posso lasciare così. Però dovresti abbassare un po' il macchinino, pare che abbi una patata in bocca. Allora, macchinino abbassato, guarda un po', tenendo l'amplificazione così. Mettici l'attac. Vero? A canonata è questo microfono? Yes. Chiara, chiara. Piove. Cosa, Luca? Ero distratto, c'è la televisione accesa qua. Ho detto che piove. E la garuva tanto. Non è che comandiamo noi, no? Già comanda chi ti rubiamo di sopra. Chissà. Che arrivi il bel tempo. Ecco. Come ti sembra la radio di questo? Bella, di lusso la tua voce. E questo è il microfono normale, Emmy, il suo originale. Aspetta, facciamo un... aspetta, no, non lo posso fare. Aspetta, dammi 5 minuti. E già siamo qua. Sì, sì, Natali. Eia, sono qui. Adesso ti metto un altro microfono e mi dici qual è meglio, eh? Aspetta che lo attacco. Ehi. Allora, ci sei Natali? Sì, signore. Allora, questo è l'altro microfono, vedi un po' rispetto a quello di prima. Questo qui è meglio al 100%. Vero, questo è il Super Cidric. Meglio è questo, dai, è meno rimbombante, è più chiara la radio. Vabbè, nell'altro perché ce l'ho, cazzo, qui era già a 8 il microfono, in questo ce l'ho a 3. Vabbè, ma va meglio questo, Lu, va meglio questo. Che va, allora lascio questo. Sei più comprensibile, tutto è più una radio da salotto questa, linda da combattimento. Cappa. Vabbè, sono due microfoni diversi, uno è uno Shure e l'altro è un Tarnel Super City. Lo Shure ce l'avevo io, lo sai dove andava bene lo Shure che avevo io, meglio anche del Turner. Sul Galaxy Saturn, ecco, io avevo questo shooter, una bomba era, usciva più forte di tutti, andava meglio dell'MB più 4, del Turner più 3B, che ce l'ho avuto anche quello, le mani mi dovevo tagliare, e anche del coso, dello shooter, sempre le mani. C'avevo anche il Turner più 2, quello celeste, da tavolo. Vabbè, già si trovano, Natali, già si trovano, a voglia. Io questo Super Sidri che l'ho visto e siccome l'avevo già sentito, ho detto, beh, adesso lo prendo, lo compro, l'attacco di far radio. Lo so, questo qui è più chiaro al 100%, guarda, è Super Sideri che è una bomba a confronto all'altro. L'altro è troppo bu, troppo rimbombante rimane la radio. E non è chiara come questa, è chiara la radio. Vero, l'abbiamo regolata con Roberto Quadrato. scheda, lascio così questo microfono di Turner. Va bene anche così, no? Amplificazione a appena più della metà. E Mikey Gain a basso, a 2. No, così va bene, andare. Raga, così. Fai una goccia d'attacco, così non lo muovi. Difficilmente li tocco. Oggi perché vabbè stavo provando questo sciure. Sì che perché io ho fatto le connessioni stamattina. Infatti come ti ho sentito ho detto beh ci faccio dare un controllo a Natalino con lo sciure. Infatti. Ma è troppo forte manchi. Andrebbe meglio l'MB più 4. Sentito la vedi a Giulio? C'è anche l'MB più 4. Però mi hanno detto che è troppo barattolosa, bisognerà cambiare la capsula. Non lo so se è stata cambiata la capsula. Quello che c'ha Giulio funzionava bene, bello chiaro, era attaccato al capo. Adesso ti faccio sentire l'MB più 4. Prova a vedere. Hai detto la logica a Natalia che c'è il Sergio Busso. E il capo di Attacca. Aspetta, mi metto la batteria e te lo faccio sentire. Natalia. Oh! Allora, questo è l'MB più 4. Parla, fa un passaggio più lungo a vedere. Un po' l'amplificazione è a metà di questo 1, 2, 3, 1, 2, 3 com'è tu riesci a tapparlo ce l'avevo dentro un mobile. No, è troppo rimbombante, meglio l'altro troppo rimbombante, anche abbassando così l'amplificazione e tutto barattoloso rimane classico dell'MB classico se non si cambia la capsula e vorrà cambiata la capsula. Ti mando la foto. Il Super Sideric è migliore. Guarda, ti ho mandato il video. La gente è più da letto. Cara gara, il Super Sideric. Cara gara, rispondi a quello che ti ho detto. Mala suerte. È nuovo. Chi è la gara? È già pronto la battaglia pure. In che senso? Rispondi là. Chi è la gara? Aspetta un attimo. Oh Lucio, gente. Natali! Cara! Mi sono andato a ritirare il tuo bambino. Coraggio! Ma non è carne troppo grassa per mangiare tu? Non sei diabetico? Io mangio di tutto. Di tutto? E allora, mi va che ho mandato la foto. Con il cino. E la gente la baita, quindi ti mi sorride. E la bella te prende ciao ciao con la zampetta. Curarito, ti deve essere poco buono al ruscio. No, minoreto, come te, 7 kg. E a me nulla, no. Che è vero. A 8 euro. Ma vero è che sei maledetto, Luca? Sì, io. Ti sei passato dalla saiponda. Sì, ti ho una dita. E vabbè, dai, ci sentiamo dopo, ciao Luca. Luca. Sì. Oh, sono tornato. Che era. Tutti morti, oggi tutti morti. E ieri non c'era nessuno, lo stesso, ne avanti ieri, boh. Per l'estate non entra più nessuno. Io ieri ho chiuso e basta. Come ho visto che non c'era nessuno alla solita ora. E infatti ci sono, vabbè, nel 23. Ma neanche nel 23 c'era nessuno. Strano. E poi non trovo più nel 23 era. Rimane per il pompone, dovete BMR me l'ho tolto io da qui, che pizza che sono stato. Ehi, fate aumentare le bollicine qui. Allora ti faccio vedere. C'ho quattro portanti e uno... E uno base, così è. Ma dai. Adesso li regalo, ma me ne faccio uno. Due sono bigli. E due sono di cui 8-8-8. Ma ho pensato la zona di cui di 8-8-8. Già programmato il computer. L'altro è con quattro frequenze. Quello con display attivo, ecco. Sì, è bello. Mi serve, ma non balla. Da slide non lo ritratto. Qui c'è Vittore qua. Quello solo che per le bande alte, acca e per le mie figli. Infatti, mi mancano solo le acca. È in base lì si prende, è piccolo. Sbagliano suono. Tanto 10, c'è qualcuno? Tanto se scucci l'Italia che chiama. La sabato e domenica già fa bello, eh? Almeno questa qua è da passeggiare, speriamo che finisca qui ferma. Che avanti? Avanti qua su 10 devono entrare? Beh, come andiamo? Dammi controllo. Picca che se affondo scala, cosa vuoi dire controllo di voluto? Vabbè, no, stavo chiedendo più cazzo per me. Ho usato l'antenna, l'ho staccata stamattina per l'altezza per il fulmine, poi l'ho preso e ci ho rimesso a posto il cavo, non per altro. Pensavo che era in corto o roba del genere, capito? E dammelo tu un controllo invece. Prova un po'. 1, 2, 3, prova radio. Fondo scala. La radio forte, eh? A voglia. Sto provando un'altra radio a vedere. Poi c'era qualcuno che è entrato poco fa, ho chiamato, c'era il bip, segnale forte 9:20 era e non ha risposto. E a volte qualcuno parla pure, sparisce. Sembra che sia timido a un certo punto. Vuol dire sono antipatico, cosa vuoi ti dica allora? Ah beh, quello sì. Provo a fare una prova con un'altra radio, memorizza questo segnale, non segnale, questa radio, il segnale non mi ha fatto nulla, questa modulazione, e poi adesso cambio radio, mi dici cosa cambia Antone? Prova. Cosa hai notato Antone di differenza tra questa e l'altra? A parte il segnale, ma comunque sia, se 9:40, segnale 5 amplificata. Segnale 5. Ma fa culo. Radio 5 amplificato, ho detto. Se è fondo scala il segnale. Ma questo è più forte il segnale dell'altro. Allora risulta un poco, non me ne sono accorto, aspetta. E la radio differenza, notato? No, no, lascia così che è bella quella radio, non toccare nulla. No, allora questa è la radio che utilizzo normalmente. Quella che ha sentito prima, cosa noti? Più bassa, più alta, cosa cambiava? Un pochettino più bassa, ma poca roba, non di più. Ah, perché l'ho abbassata un pochettino, perché mi ha dato un po' forte. Il segnale è uguale o cambia qua il segnale? Appunto. Questo è più forte il segnale? Sì, oltre 9:30, sì. 9:30? Sì. Si mette 9 fondo scala poco fa. 9:30 te l'ho detto io. Da te lo zero, dimmi. Ah, ma tu stai usando un baracchino adesso? Beh, secondo te cosa sto usando? L'altro si è bruciato, lo sai, no? Non ce l'ho più quello, ma ormai quello è bruciato, quindi a un certo punto sono solo il 2009. E come hai fatto a bruciare l'altro? Non l'ho bruciato io, l'ho bruciato un'altra persona. E quindi come va a finire? E quindi lo ripara e me lo ritorna, mi ha detto. aspetta, ma pure tu andava una radio del genere, bambù. Cazzo, ma... non devo dire nulla, ma quando capita, capita, a un certo punto che capita una cosa del genere, non è che me la posso pigliare con lui, no, a un certo punto. Ma stiamo parlando del 57? 857, no, 57. Non volevo dirlo tutto, ma già mai compreso, io ho letto solo l'ultimo numero. L'857, quello lì ha bruciato. Sì, come fa a bruciare? C'è tant'enna, sì, ma brucia una radio del genere? Il fulmine c'è sceso. Un fulmine? Ma la qua Sassari? Non è qui, è fuori. Vabbè, cioè, quindi è un bel danno hai fatto. Io no, la verità, ma comunque questo si possa riparare, non è che se scende un fulmine per elettrostatica sia tutto quanto bruciato, no? Ci mancherebbe. Ma bene, non riguardi, bisogna controllarlo bene. Comunque il segnale mi ha detto, scusa, perché non avevo capito che dico con questa radio, e questo segnale di adesso è più alto o più basso di quello che stavi ascoltando prima? È uguale, da 3-0, però sai che siamo attaccati, siamo a 100 metri di meno. Ah, ho capito, allora l'ho capito male, perché ho capito, no, è molto più forte questa, tu come più forte? Vabbè, uno, cioè, devi capire, io ho 3 baracchini, ogni baracchino ha un coso, un segnale diverso di ricezione, capito? Non l'ho mai toccato, quindi a un certo punto ho regolato con un cable magari, hai capito? Me l'ho regolato con un cable e basta, me su tutti quanti uguali i segnali e sono tranquillo. No, vabbè, ho capito male io allora. No, la radio mi ha detto che questa è un po' più forte di quella prima che stavo usando. Sì, esatto, infatti ti sento veramente bene. Tu come mi ascolti, va bene, devo modificare qualcosa, non lo so. Antonio, io adesso di nuovo ho cambiato radio, io ti ascolto perfettamente, guarda a livello microfonico, tu mi stai dicendo che questa è più bassa di quella di prima. Adesso va bene. E come modulazione, come cosa noti di differenza? Boh, amplificata la verità. Chiara, sempre pulita, non è barattolosa o cosa del genere? No, no, toni bassi, appena appena toni bassi. Ok, segnale uguale invece. Sì. Ehi, vediamo un po' se nel frattempo qualcuno vuole entrare. C'ho un mal di testa oggi, forse ha giubilato un freddo. Per questo cazzo di tempo di merda, mamma mia. Vediamo sul 10 se vuole entrare qualcuno, avanti, se no riprendi il fantone. Alice è costo, e non metto qua uomini. Natalino, lì un tossicomane, lo sai che ho sentito Natalino stamattina? Dimmi, mi ha chiamato Salvatore Maestrale, stiamo parlando un po' in generale, da chi non entra su CB Talk, e poi c'è un'altra roba, dai che ci facciamo le chiacchierate, che qua è un mortuorio, sono tutti morti. E cosa vuoi ti dica? Tu Antonio ce l'hai il CB Talk? Negativo. Antonello lei? Sì, ce l'ho io. Io l'ho usato un paio di volte, solo sta diventando un ciaramedo adesso, c'è di tutto e di più. Poi ci sono anche gli adescamenti, in epoca di Gentaglia, no? Poi ci sono i canali privati che cacchio parlano solo loro, ci hanno fatto i gruppi. Vabbè, comunque ci sono i CB, già lo sai. CB Talk basta conoscersi, vai in canale quando vuoi tu e sei a posto. Fai come fanno i napoletani, cioè per dire, via chiusa, entrano solamente 5-6 persone, poi che gli altri tutti a fanculo. Così bisogna fare anche lui, per fare il napoletano lo fanno i siciliani, il discorso è quello. Gli altri si azzuffano, fanno quello che vogliono, c'è chi mette a fuoco, c'è in pratica c'è chi entra di lì, poi entra in coso, in zello, e si sputtana, eccetera, eccetera, capito? Quindi a loro non ce ne fotte niente. Se vogliamo fare un canale, in pratica saldo per tutti, per italiani, cioè in pratica per sardi e anche per quelli che sono da fuori, è il discorso, basta che ci sono tanti canali, basta scegliere uno, dove non c'è nessuno, tanto ormai la questione è diminuita, non c'è più, c'era tutto quanto il boom, i primi giorni, adesso non c'è più nessuno, basta scegliere un canale e noi parliamo con tutti. Quelli che entrano da fuori non si fanno entrare, il discorso è quello lì, si fa un club, si può fare, già lo sai che si può fare, non fanno entrare nessuno. Quindi se sono assegnati entriamo solamente noi a parlare e basta. Via. Ok, riprendi Natale. Sì, dai, ti ascolto, che sto mangiando io. Tu me l'ha brutto, cosa è successo Natale? La televisione accesa, capito? Sì, non c'è problema, cioè, lasciamo un attimo di bianco, se nel frattempo vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu Antonè. Sì, vabbè, sto cercando il microfono del coso, fa un culo a me, cazzo, mi ricordo, sono appoggiato, perché mi ha chiesto un barattino, un vecchio CD, mi ha chiesto, dice, mi serve un barattino barretto, dice. Io volevo un 2009 con quello del 4000. Ho detto, quello è non ti posso accontentare, ho detto la verità. Certo, detto, ti accontenti di questo, ho detto, ti prendi questo, ho detto, ti avanci. A un certo punto, ho detto, quello del 4000, ho detto, non è che costa, detto, 50 euro, ne costa molto, ma molto di più. E qui adesso sto cercando il microfono di quel baracchino, okay. Non mi ricordo dove diavolo l'ho messo, stavo attrezzando il microfono nel tavolo nell'FM500S, ma non mi ricordo dove l'ho appoggiato, con tutto quel casino che ho qua. Adesso vado a cercarlo e poi già rientro, va, 5 minuti. Anche io rimango poco, però se ci sono, se no, perché adesso devo fare cosa, dai, aspetto, rimango in stand by 5 minuti anche io, poi se no ci salutiamo dopo eventualmente, dai, cerca, se mi trovi, se no ci sentiamo un'altra occasione. D'accordo, ok, non c'è problema. Se ci sei dopo già ti chiamo, voi quello non ci sono problemi. Adesso cerco il microfono con l'amplificato dell'FM500S e poi vediamo un po'. E lui è un 4000 in pratica, capito? Quello che sto usando adesso. Adesso vediamo un po'. Non lo so. Mi sta mezzo convincendo. Secondo me di nuovo mi faccio pagare e va a far cuffia. Via. Okay. Vediamo un po' se su 10 c'è qualcuno ancora. Avanti, chi vuole entrare? Il doppio Roma. Chi è? Buonasera, chi c'è qua? Buonasera Priste. Ciao Gianni, buonasera. Chi c'è qua? Il più piccolino di Sassari. Il Tanner più 3. Il Tanner più 3. Ciao, ma ciao Roberto. È un bel forte serie di radio. Che radio è questa? Questa è l'ala 68. È un bel forte di radio. Un po' rimbombante, burudruco, però già ti ascolto bene. Perché c'è Gianni pure. Ehi, ciao Roberto. Io ho fatto un break, non mi ha risposto nessuno. Poi al canale di rimorso, e lei va a vedere, fissa poco fa con Alessio. Sono entrato io, mi siete fuggiti. No, non ho sentito nessuno, anche ho lasciato il bianco, ha fatto un paio di chiamate, non ha risposto nessuno. Adesso infatti ho detto, ti manco 5 minuti anche io perché devo fare cosa. E poi siete entrati voi due. Ma vabbè, perché è male sta arrivando? Ma non so, come fate a non sentire? Vabbè, avanti Fra. Segnale 9.40, vabbè, 9.30 sì qua comunque. Non è un controllo, fa la cortesia. Prova a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9.25 sì qua. E io Fra, ma vabbè, quanto sono? Prova a parlare. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un po' più basso di lui, ma sempre forte, oltre 9.20. Da pagato. Io sto provando un'altra radio, sto provando un microfono, come arrivo con questa? Ti arrivi bene, tranquillo. E io. Solo che vi devo lasciare, signori, che adesso devo fare cosa? C'ho anche un po' di mal di testa, sono tutto scombussolato oggi. Ora se a giubilato dove va a capo, mi c'ho un po' di mal di testa. Dai. Ciao Gianni, ciao Franco, vai, più tardi se ne ha giocato, però sono molto stanco oggi. Poi c'era anche Natalino, saluto anche lui, eventuali amici qua su 10 in ascolto. Io faccio corretti, ciao ciao. Ciao ciao Roberto, ci sentiamo, avanti Fra. Ciao Roberto, buonasera, buon tutto, buon carica. E ce la riascolto alle prossime. E beh Fra, cosa si vendi oggi? Niente, oggi non ho fatto niente. Stavo sistemando alcune cosette qua e basta. La radio ti piace questa, va bene? E fa arrivato il microfono. La sto utilizzando, non lo qui, sta nel più 3. Però c'aveva un problema, sul filo, capito? C'erano due fili interrotti, quindi ho dovuto cambiare tutto il filo nuovo. Vai, che questo qui è l'MB più 5, più 4, che hai messo la capsula mia, è andata così bagissima. Ah, c'è di zei. Ehi, a me via, io, andiamo bene, andiamo. Azzeccato? Sì, l'MB più 4. Perché non ti piace questa modulazione? Bella, bella, non hai bisogno di ottarne, non di... Non è che sia molto diversa dal carne, è forte. Va bene, già va bene, dai. Fa più che bene, alla grande. Te l'ho detto che ho ritirato quella roba là. E adesso me lo piazzo, secondo me. Non so dove, ma me lo devo piazzare. In qualche punto lo metto. Vabbè, piazzalo. La pagava, forse su una radio lo metto. E lo attacco, così almeno quando mi sirvi io tutto grasso. Vabbè, se ce l'hai usalo, cosa stai lì a non usarlo? Gaba. Poi la sola cosa la studia, che tutta la mattina l'ha tenuto acceso sotto, lampadine da 100 watt, e non l'ha fatto in tutta la mattina, è stato, meno male che apposta, cioè mi stava per chiamare, va lì, tac e si stacca. Cazzo, di nuovo la capo. Non so cosa dirti. Qualche problemino, qualcosa che va in avaria, come scalda, boh. Vabbè, ma gli strumenti esistono per misurarlo. Si può capire o non si può capire cosa sia. A volte magari ti segna bene con lo strumento e a caldo magari va, ti dà problemi. Non vuol dire che... Anche io ho misurato un finale con lo strumento, segnava buono, e invece non serviva per dire. Ciao Fra! Ciao, buonasera, a che? Come si sente, bene? Bene, bene. Saluta mia Lucia. Contraccambiato. Sono Gianni, doppio rum. Cambia la modulazione. È diversa questa da quella di Gianni. Più forte, no? Le donne ce l'hanno sempre così. No, le donne ce l'hanno più chiara la voce. Io ce l'ho più grossa, più rum. Vabbè. E che vuoi va? Infatti ieri ha cantato Lucio Dalla. Ieri mi hanno fatto cantare le cazzo di Lucio Dalla, capito? Perché c'è che c'ho la voce che ha dato. Tra un po' vai a Sanremo a cantare, allucinato. E vabbè, già è bello cantare. Perché sa cantare? Io non sono molto bravo su queste cose. Se ti metti sì. E canti ogni sera, lo vedi se impari. Ma chissà. Chissà domani. No, lo saccio, no. Bravo, ti dica. Così este. Aspetta un attimo, già sto controllando una cosa. Ma c'è invece la gente sul 23? No, è propagazione, fra. Cosa hai combinato, Luci? Ma invece di che, sono andato alla dottoressa, ho fatto un po' di spesa, le solite cose, dai. Non è che sia andato a divertirmi, quello no. E poi sono andato a finirmi il vaccino, ho fatto il secondo vaccino. Quindi sei a posto adesso? E a posto, nella lista dei morti sono, cazzo, siamo morti tutti i gatti che si sono arrivati al vaccino. Andiamo. Ma io non ne ho fatto AstraZeneca. Infatti gli ho chiesto prima cosa faceva, se AstraZeneca non l'avevo fatto. Vabbè. Meglio così, dai. Potete stare bene, poi per il resto non cambia niente. Solo questo qua, se ci metto le cuffie troppo vicino mi fischia, capito? Oh, addio lontano. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera a todos. Tutto todos. Tutto bien, a parte il tempo di merda, ciao Gianni. Ciao Claudio. E allora questa antenna sollevata l'abbiamo? No, assolutamente no, sempre lì, fermo, angolino, non la giocano. Adesso stai arrivando più forte, come mai? Sei attaccato? No, ho tutta la potenza del gas, 20 watt. Adesso sei 9,20, sì, però quel giorno è 9,10. Tutta la potenza del gas, l'altro giorno col baracchino, con l'erba c'ha 4 watt. risolto il problema. Cioè, va bene, lì già ti fa sentire lo stesso, dai. Insomma, ti ha guardato lontano la Sassari, non lo vedo Sassari, quindi... Ma tra lì ci vuoi mettere o che cosa? Nulla devo mettere, cosa metto? Boh, non metto niente, no? Ma l'alzi? E quest'estate, quando c'ho tempo e voglia, tanto non ne ho tempo di stare alla radio già. Vabbè, ogni tanto quando entri, puoi dire, oggi c'è la propagazione gambe di puzzi, c'era America, c'era la Germania, su NFM. Guarda, la propagazione ho anche le balle piene, perché mi copre quasi tutti, c'ho propagazioni quando c'è a 9, 9, 10, anche 9 più 20, perché è molto aperta come zona, capito? Quindi no, non è che ci sia bisogno di sollevare molto, però Sassari non lo vedo. Cappa cappa. Vabbè, ma già arrivi lo stesso bene, dai, avanti fra. Quanto ti arriva Claudio a te? A me, prova qua. 1, 2, 3, 10, 20, 30. 9, quasi 9, 20. A me lo stesso, 9, 20 modulati, quasi più di 9, 20 arriva. No, va bene, già no, va bene, per fare due chiacchiere più che sufficiente. Stavo ascoltando anche la parte del Campidano stamattina, arrivavano. A cosa? Dipende dalla zona anche. Vuol dire che c'è zona molto aperta lì. Questo è l'apparecchio che ho mandato a lineare. Questo di gara che è stato un ecco, eh. Ah, e arriva un bel forte. Cos'è col carne? Via, danno più tre. E arriva un bel forte. Una bella radio. Gappa gappa, grazie. Non mi è mai toccata. Fidati che 430 è ancora dentro la scatola. Una, l'altra è... l'ho mandata a mettere il filtro, perché ne avevo preso anche un'altra. E ancora non è arrivata, dovrebbe averla spedita oggi, così mi ha detto stamattina. Cappa, e vabbè, già arriverà. Lascialo a fare con calma. Andare. Avanti Franco, riprendi tu, dai. Eglia. Andar bene, a Benemedas. Quindi qua è finito tutto per rasare. No, sinceramente l'erba l'ho abbandonata perché ha piovuto, quindi sto aspettando adesso se domani, sabato e domenica fa tempo bello, le do una rasata. Ma il campagna sta di nuovo crescendo e bisogna ritagliarla, però adesso fino al 20 non la taglio, così non la tagliamo più. Scusa che mi ha chiamato mia moglie, riprendi già. Voglio lo faccio secco, perché? Me l'hanno cancarato con quell'iniezione, ohia. Sembra come i vazzivali, sembra che abbiano un artista. Allora c'è la mano pesante quello. No, la medicina proprio che ti crema. L'altra volta mi ha dato appena di stanchezza, però una cosa sopportabile all'inizio. Poi dopo 2 o 3 giorni mi è venuta questa stanchezza forte. E me l'ha chiesto se avevo avuto degli effetti collaterali, ho detto. Ma è probabile che sia l'iniezione e la medicina. Beh, è possibile, sì. E tu non te lo fai? Io adesso ancora no. Ah, prima guardi l'effetto che fa sugli altri, lui sì. Infatti. No, perché stavo facendo alcune cose con questi vaccini. Non mi fido più di tanto. Ma che io mi fidavo? Ma mi hanno chiamato al centro diabetico, mi hanno detto, se non è lì, si ricordi che è a rischio, perché ha il diabete, queste cose, mi hanno fatto cagare e sopra andato. Non so cosa dire già, io per il momento non ne faccio, poi si vedrà. Non lo so, non c'ho molta fiducia di per questi vaccini qua, capito? E se ti chiamano? Se mi chiama l'avrò a fare, per forza. Perché mi sa che stanno facendo a scaglioni, però a giugno dice che devono concludere, lo fanno quelli di massa, non guardano l'età né niente. Franco, ti vaccino io, c'è una figlia in questo momento. Non ho capito. Franco. Natale, sono andato a fumare. Fuma che è lunga. Caggio detto, ti vaccino io, faccio una siringa in questo momento, gatto. Cosa c'è di quelle siringhe da cavallo? Cazzo di basta quanto arrivano forte qua, 5, 7, 8 vichi spagnole, allucinante, una cosa incredibile. E anche qua già si fanno sentire. Tu poni lo squelci, come ti ha giocato io, così non c'è la missione. Sa, comunque quell'antenna lì è promossa, mi pare me l'abbia subito lui. Thanks. attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Salutati, che vado a mangiare un boccone e poi mi guardo un po' di TV, ok? Una attimo, ma la prossima, dai, sono qua. Mi corri, scusi, provando, facendo, ma niente di che. No, anche io non è che sto entrando in radio. Giusto ce l'ho acceso quando mi siedo 5 minuti qua al PC per vedere le mail e quant'altro, niente di impegnativo e di attività di radio, capito? Va bene, beh, ti lascio, ci sentiamo però, siamo qua, ciao ti altrettanto non ti dico, ma ascolto parecchio, ma non è che Nadia sei a me, va a vedere sul tuo sito, sono entrato a salutarti. Ciao, buonasera, buon tutto, saluti a casa, ciao. Ehi, ma altrettanto, ricambia, ciao. Ma tu vieni qua di quale ti piace, buonasera. Sì, io quando voglio, non c'è problema. E bello genio. Ciao sì, vabbè, come va, sta a posto? Beh, diciamo di sì, dai, in aspettativa. Fatica, aspettativa. aspettando la cosa che ti ho detto. Non c'è fatto niente. Sì, ce l'ho fatto, devo solo aspettare che lo imbarchino. Come vuoi imbarcarlo? Tra una cosa e l'altra, ti sarà per controlli generali, capito? Quindi a fine mese, credo. Addirittura, ma dove? Sono andato da Laura, da Monica, è sempre lì. Ok, da Monica, sì, lei ha fatto il mio nome. Sì, è a Laura però. Tutto regolare. Ma la figlia ti ha servito? Sì, non c'era lì. Ma stasera l'ho vista. Come c'è stasera Monica? È tornata, allora era fuori. Non lo so, lì non c'era, non ha servito la figlia, poi c'era anche il padre è entrato e uscito, però servendo altri clienti. Già su una cosa sedia, quella dove l'avevo preso tu, è una cosa sedia, vai, dopo qua chiudi. E adesso aspettiamo quando mi darà la notizia, dai, poi già ti avviserò tramite messaggio. Quando vuoi, già sono sempre lì. Sono sempre lì da 30 anni a questa parte. Quando ti stanchi dimmelo che vado io. E un altro, anzi, 31 anni. Io faccio 40 anni di contributo, vado a Mignano, facevo più lavoro, ti lascio il mio posto. Va bene, fai il mio nome, io sto per arrivare alla pensione, poi anche io lascio gli altri. Ma è vero che dove sono io, un casino, ragazzi. Lo so, ma io vabbè. No, vabbè, ma a noi diciamo che se ci gira bene, stiamo bene anche così. Adesso c'è fermo, così. No, vabbè, stamattina non abbiamo lavorato per via dell'acqua, ma quella è retribuita lo stesso, non è che non siamo fermi, stiamo continuando ad andare. Allora, se stai lavorando va bene, va benissimo. Sì, a voglia. Andabex. Come lo segnale lì oggi? Che sto portando per sampli? 5. Ci aumenta, aspetta. No, non lo voglio aumentare comunque. Credo di no, aspetta. Così credo che sia al massimo della portata. Signore, se per quello si farà leggermente sciatura, ma questo leggermente cambia leggermente la radio. Allora è cortata male. Guarda un pochino, si è migliorato, perché credo che poc'anzi era così. No, la radio sta peggiorando, abbassa. Abbasso, ma sono andato in qua, cioè è accordato, non è che adesso magari sale a manetta e poi scende di nuovo. Infatti sta salendo sempre da solo. Lascio un attimino il bianco, vediamo se riprende. Aumentato da 9,5 si sale a 10. Però se hai visto, cioè se si trovi è accordato anche la radio limpia. La radio è limpida ora? Sì, sì. È perfetta. Allora, non la tocco più. Cavolo, ma sono... sto impazzendo lo stago, ok? Stiamo parlando bene, parlando più che bene. Andrà adesso, lascio così allora. 9,10, vabbè, non so dove sei tu, però già va bene. Sono all'ingresso con Torres. All'ingresso con Torres, e sono anche in un buco. Io, capito? Sono una zona alta, però io rimango a casa mia, una casa singola, rimane dentro un buco, molto bassa, quindi ce n'è alla grande, se arrivi 9-10 a me, guarda, vuol dire che spostiamo di brutto. Sì, io vabbè, qua vedo il tuo segnale, è 68, a picchi quasi a 9, ma io già sono più aperto, però... Sì, sta andando abbastanza. Va bene, perfetto. Però vedi, guarda ora, adesso si è abbassato, perché grazie che il vento lo raffredda, no? E magari adesso sarà appena di meno il segnale. Credo. 9,5 e la radio è ancora più chiara. Perché quando fai passaggi lunghi che scaldano va al picco massimo, poi magari stai un minuto così in stand by che allora si raffreddano e scende. Va bene. Cioè, come ti sei chilogatto a casa? Cosa vuol dire? Non mettere 6 kW a casa, come ce li ho io. Ti ho ascoltato, ma appena c'è un sacco di propagazione. Ed è anche forte. Ho capito casa, ma non ho capito il resto. Addirittura, così forte la propagazione a quelle parti. È arrivata forte. Con gli aerei possiamo attaccare al mio camper, che ha integrato il gruppo del progeno, che eroga 3 kW. Andare. No, con 3 kW a voglia. Anche quello là dovrebbe avere un gruppo elettrogeno, però non so quanto sia, sinceramente. C'è scritto, ma non vi prende ancora di quello. Che cosa è? Che marca è? Cazzo, roller media, vabbè. Roller team. Eia. Cosa mi ha dato? Sì. Aspetta che ti faccio... Ti mando il video. Manda. Come cacchio si manda il video? Qua c'è lì. Allora, no, queste sono le fotografie. Porca troppa. Così siamo anche a Santa. Come cacchio si manda? Aspetta. IoT, un messaggio su messaggio mi devi mandarmi. Mi vuole la laurea. Ma non è messaggio che volevo mandare, è un video, e devo cercarlo più un video, ok? Siccome sono 50 miliardi di fotografie. Perché non ho dato da Matera, da Modena. Vabbè, ti manderò a foto la via, se riesco a prendere le... Ah, ecco. La propagation. Aspetta Antonio Nambola. Vabbè, non ti è arrivato. Aspetta che c'è un lontano ci vuole, aspetta che lo prendo. Sì che mi è arrivato, vediamo un po'. Lo dico subito. Bellino, sì. Ma io ti accattolo dietro? Sì. Vabbè, poi come questo matrimoniale la massaggio, Aia! E poi hai due dinette. Ah, c'ha due dinette questo, bello. Andate. Ma fatti quattro ore. Oh, già va bene. Cazzo, cazzo di più. Sono ragazzi, sono ragazzi. Sono bello, anda a voi, anda a voi. Va benissimo, va benissimo. Come occhio la cosa? Sì, ce l'ho scritto, ma adesso non lo ricordo, non ho... Il capo ero fatto. Ah, ecco l'altro. L'Eterno. Ma mi sono andato altro? Sì, l'Eterno. L'Interno l'hai visto? No, non l'ho visto, solo l'Esterno mi ha mandato. Mi ha dato solo l'Esterno. Mi ha mandato un inserto dove c'è scritto la marca e si vuole solo fuori. No, infatti non lo... Allora, aspetta un attimo. Uno sta caricando. Aspetta, uno sta caricando e... È un po' lento questo particolo. No, caricando entrambi, dai, così lo vedi anche dentro. Sì. Vedi che di mia che fai che non ce l'hai loro. No, ma te mi fa bene questo telefono per il lavoro. Se tu vedi come è stato il telefono, io guarda, mi dirai, ah, lascia perdere. Che è così, al lavoro purtroppo. E siamo telefoni da combattimento. Aspetta, mi si incanta anche il mic, adesso mi prendo le e mi compro il mic nuovo. Quindi a che cosa hai compagno a che cosa? Io faccio l'economia. Ehi, io te l'ho già fatto girare. Stai facendo altro, dai, così almeno scalda anche altro. Bene, adesso magari questo qua arriva più basso, però. Allora questo arriva a 7. Modulati 8, ma la radio è più forte, molto più forte. Vabbè, non fa il quadro la trappola, lo accesso. Già va bene. Sì, va bene, questo va meglio dell'altro. È una radio eccezionale. Questo è 450. C'è una radio fuori al normale, come di quello, come radio ignoranti, quello che è il con le cazzuppe. Esatto. Va bene, questo non è spinta, questo arriva a pochi watt, arriva massimo a 80-90 watt, non di più, ma allora va bene. Sì, va bene, va benissimo, ti ricordo che va benissimo, sul radio, senti, guarda il bianco. Va bene, ma caricato questo video? No, non è arrivato niente, non è arrivato niente. No, non ho fatto niente, c'è solo quello esterno e basta. Non è arrivato niente. È vero, perché sta ancora caricando, qua la connessione in campagna è così. Abbi pazienza, magari lo vedi domani mattina. Magari mi arriva quando ho già visto al vivo il camper. Ma tu abiti in campagna, non abiti dove tuo sassari. Io abito periferia della Toroce, all'uscita da Liceo, la Toroce per scendere verso Platanera. Sì, dietro il fornitore, si scende con le campagne, un po' nel tratto, però va bene. Ma non c'è tra niente la discesa di San Camillo? Se proseguo, no, non c'è tra niente, però se proseguo la posso incrociare. Ah, non ho capito. No, io no, il tuo numero, allora, non so, sempre l'ho mandato via WhatsApp, te l'ho mandato su Messenger. Aspetta, te lo mando io, via Messenger, il mio numero. Via, sono su WhatsApp, arriva prima. Arrivato? Sì, sì, la scheggia, che aspetta che... salvo contatto. Perché mi è arrivato? Beh, senta male. Ciao a tutti. pizza. E se magna? Ciao a tu. Ciao, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Io scendo giù. Sono quasi per arrivare. Buona pizzata allora. Sì, però ti faccio vedere. Quando mi hanno dato il numero, adesso vedo che ti sta facendo vedere l'interno. Peccato solo una cosa, il frigo piccolo. Ma ci sto organizzando, sto lavorando sopra, non su quello ma su un'altra cosa. Non è che non serve, cioè non serve in, cacchio si chiama in cantina. Come ce l'ho io? Io ho un frigo da bar dentro da voi, ho trovato il frigo grande dentro, non so se riuscire al capo, mi sono messo il frigo da bar grande dentro da voi. Ma guarda, di quello mia moglie ha detto, questo va tipo più di birre con il frigo, un po' più di birre di roba da bere. Lei nel frigo normale, ha messo bene, bello, è nuovo, è nuovo, nuovo. Poi mangiare sono tutti bene. Bello. Qua ci mettiamo a palazzo, per forza. Sì, vabbè, lì c'è già il posto, ma mi sembra che ce l'ha anche, perché ho visto la caffetta dove ci ha preso il mic. L'antenna sul tetto, come la mia? No, non lo so, devo vederlo. Andiamo anche la staff nel caso, per poterla mettere bene. C'è quella stufa marrone, poco scalda, mamma mia! Sotto la neve, un figurone fa un plastuffa. E vabbè, se ci lasciano uscire in inverno anche. Sto pensando per mettere grande il frigo, ma non c'è spazio. E vabbè, lo sia il gabbone, lì ci metti la roba a mangiare e nel gabbone ci metti la roba a bere. Si disimpegna un sacco. Grande il gabbone. Sì, credo di sì, diciamo che se alzi il letto ci sta anche la rotto. Addirittura ho visto che c'è il portamotto anziché il portabici. Che culo che ha avuto? Dove la provetto il portamotto? Costa 2000 euro. Guarda, ma non è mettato lo solano. Come? Ho detto, ma non è mettato lo solano. Non bisogna averci proprio del telaio, perché ogni staffa ha le staffe che va sotto e vanno attaccate al telaio, no? Ogni telaio ha le proprie staffe. Vabbè, a me mi serve per la bici. Molto meno, quindi, a meno che mi comprate la moto. Io sto prendendo un portabiciclette nuovo, nuovo, mai usato, con la fiamma, per gli interni. Ogni volta lo metto su subito, su nel magnetico, faccio dopo casa nuovo nuovo. E con gli estraibili lo metti dentro il gabbone e poi ti estraibile, praticamente ti porta la bicicletta fuori, tu la puoi rimettere, tutto da fuori fai, poi se metti un corso a te ne va solo dentro. Ho capito. Ma io ormai, cioè quello che ho fatto non lo metto a contare niente, non è che. Quello lascia, il portamotto serve, lascialo che ti serve alla grande. Se è la moto sì. Poi se è dietro per forza, o magari hai portabiciclette. Il portabiciclette è diverso dal portamotto. Sì, lo so. Vabbè, aspettiamo, va. Io ti posso dire una cosa, che a spera sì, io cioè, ci mettere in testa. A Modena sono un po' lunghetti con le cose, con le consegne, perché ne hanno talmente tanti e fanno gli stock. Prima uno stock per il sud, uno stock per il centro, dipende da che numero di stock ti capita, il tuo capito. Sì, ma mi ha detto nulla, vabbè, infatti mi ha detto, va, non posso aspettare, se è prima va bene, se ti avviso, se no a fine mese. Ti ripeto, sono un po' lunghetti come se ti consiglio, però non vale la pena. Fidati, mi vale la pena, l'ultima professionale, l'ultima scarsa, se non fa la fatto che sono di più lo in Italia, quindi sono già tessuti. Sì, sì, sì. Vabbè, aspettiamo, non è che non abbiamo fretta tanto ancora. Io domani o domani sono a riposo, e mi va a puntino. Poi? Poi? Vabbè, tempo permettendo, ma penso che già faccia bello. Ma no, domani, domani ha messo buono, domani ha messo bello, con la leggera brezza da ponente, quindi neanche, neanche vento. Me ne vado con mia moglie lì, ah, c'è la laga sopra, prima di tutti noi diciamo, la, la pietra. Ah, va bene, entrata, dopo Bagaglino. Diciamo che c'è, c'è un ristorante, l'hanno fatto la rotonda che stanno facendo per entrare fino al santo, con la laga fino al santo, ai zinanni. C'è un ristorante dopo, subito dopo il santo c'è l'entrata della, della cosa, della, della laga sopra. Andiamo lì, con mugliera, passiamo col sole, boom, dobbiamo staccare due giorni alla grande. Quindi già lo c'è, ma cosa rimane in strada? Rimane? Come? Cosa rimane in strada? Tipo le saline, lasci c'è il mezzo lì e poi ti devi incamminare a piedi. La ragazza rimane proprio all'interno, in mezzo alla finestra, bellissima. Cioè, forse lontano dal mare, però proprio adesso il mare è una fottiglia. Non c'è neanche più lui surf, eh? Però è un'altra cosa che mi rifarò. Adesso sì, ma sono messo in testa, me lo rifaccio. Però vabbè, c'è lui che ti accompagna, c'è una volta, però lui vuole andare. Ma arrivo la mountain bike e mi metto a scacciare la mountain bike. Allora, devo salire da Nicolino e poi abbiamo deciso, ah, ci andiamo a Fintino, ah, andiamo a Fintino, e va bene. E anche da Nicolino sta bene, se trovi il tempo adatto, ah. Sì, tu ci sei stato a Nicolino, sì, da Fontana Magnani. A voglia, non diciamo che sono un po' di anni che vado lì. Ti sono un padrone. Che sei il sindaco lì. Sì, tu pensa che lo sono fatto io, andare con io, loro l'ho seduto nella sedia e gli ho fatto mangiare salsiccia e formaggio, quindi da lì mi ha voluto bene. Allora io da un po' da tanti anni che vado in Colino. Un giorno gli ho fatto un bicchiere di vino, poi mi figliolo mi chiama. Non so, ultimamente quando sono andato? Forse sono andato 2-3 anni fa, non sono andato Mario. 3 anni fa sono andato. 3 anni fa sono andato, allora non stava tanto bene, eh. Ma che se ne pigliato alla grande, vabbè adesso c'è, c'è Lucia, io la chiamo Luzzi. Eda mi chiama Ferrenia, o mi chiama Fettino. Gestisce un po' tutto lei adesso, lui non c'è, però non ha fatto più nulla. Vabbè, è brutto dire che sono un po' in bagni, là. Purtroppo, però. E di là i tedeschi, vanno, no, ci fanno la doccia, si venivano davanti a tutti, non ha fatto nulla, tutti i risati, a bada, a bada che chi vuoi. Sì, perché lì è fatto vicino alla barbecue. Poi quando hai una, due, 25, 60 minuti in più, allora ride. Ascolta, non lo conosce Gianluca, Gianluca Sole? Sì, io lo conosco Gianluca Sole. Il marito, l'ex marito Monica. Ah, è il mio collega lui. Ah, Gianluca Sole. Ah, Gianluca, Gianluca andava in moto, era anche bravo, eh. Gianluca stava parlando con me, là, era lì dove facevamo, là. È in gamba, bravo ragazzi Gianluca. Sì, sì, sì. Sì, mi conosce, mi conosce. Sì, infatti io stavo parlando, ah sì, lo conosco oggi. È così. Oggi infatti ho detto, beh Gianluca, cosa facciamo? Se ne andiamo. Ehi, aiuto. Ehi, cosa faccio oggi? Mi ha giubilato a tutta l'eva oggi. Mi ha giubilato a tutta. Vabbè, ma perché non sei riparato dal mezzo? Io devo scendo quando tu hai capito che lavoro faccio, sì? Sì, sì, sì. Ma quando, quando vado giù a sganciare i rimorchi, non scendo dal trattore per abbassare i piedi, capito? Per staccarmi l'aria e abbassarmi i piedi. Ho capito, vabbè. E lì non c'è tempo che tenga, lì non si... tutto basta, tutto stanno dove si vede la lavora che sta il caffè fuori. Si sa quando la fottutura con loro. Avevo un Laika, avevi? Avevo un'altra. Laika, è Laika. Ah, sì, avevo Laika prima, sì. Avevo Laika. Bello, bello. Ma quello era, cos'è? Siamo integrale voi? Quello sono integrale. Quella è una signora macchina. Bucellone. Era 3.160 cavalli, era una macchina, era schizzata come un dannato con la cellulare. Abbiamo venuto con mia moglie perché c'eravamo stancati dei letti gemelli, aveva letti gemelli dietro, e in mezzo ai letti gemelli c'era l'armadio, e quando ci contavi la notte il bovo ci guardava in faccia, e allora l'abbiamo venduto, e ci abbiamo fatto questo qua che 3 gradini più su guai. Capito. Vabbè, oggi io devo uscire e andare a prendere mio figlio che mi ha chiamato a recuperarlo, cioè se no faccio tardi. Beh, se coincide magari a più tardi, se no ritieni che sono bloccato, ci sentiamo, non c'è problema, eh? Ok? Allora, ciao ti dai, anch'io vado a fermo per le mandibole. Dai, ci sentiamo, ciao ti a più tardi, se coincido, ciao ciao. Ciao oggi, ciao ciao. Yeah!